c'è un povero straccione, senza lui come faremmo a cantare una canzone? Ma pensate quanto male voi fareste a chi sta bene, a chi ha il suo conto in banca, perché soldi lui ci tiene. Poveretto, ha i suoi problemi, ha le sue preoccupazioni, investire i suoi risparmi in immobili o in azioni. Pensate a un povero signore ricco che senza soldi non potrebbe andare per un weekend in riva al mare, perché dovrebbe lavorare. Come potrebbe la sua signora con le sue amiche fa bella figura se invece di un vestito tutto d'oro avesse un abito da lavoro? Per non parlare poi di che tragedia sia essere tutti uguali, che monotonia. Saremo tali e quali senza più differenze, come gli animali. Ma ricordate che l'uomo non è un animale, l'uomo è qualcosa di più. L'uomo non è materiale, l'uomo è qualcosa di più. Che cosa? All'anima, all'anima, all'anima che lo distingue. All'anima, all'anima che lo distingue di più. Ma all'anima, non capisco! All'anima, all'anima che lo distingue. All'anima, all'anima che lo distingue di più. La tragedia che temete la vogliamo lo stesso. Non abbiamo da perdere più niente. Le nostre teste sono ormai piene solo di bibite americane. Stiamo nuotando col fiato in gola in questa melma di whisky cola. E non vogliamo discutere, non vogliamo discutere con voi, con la vostra cultura e con i vostri paroloni ci fareste fare una figura da buffoni. Non siamo pratici a far conferenze, non siamo pratici, non abbiamo esperienze. La nostra scuola c'è, perfetto in questo mondo è